www.radio3pod.rai.it. Prima l'uovo, la gallina, le penne o i calamai. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli fervono i preparativi, Cappa e Drago danno l'estremo saluto al pulcino Joao, condannato alla ghigliottina. Ma Joao, ma poverino, ti hanno messo nella voliera dei reietti. Io ho fame. Senti, lo povero, ormai Joao non ti conviene mangiare, credimi. Moriresti di indigestione. E ormai il tuo stomaco non è abituato a ricevere cibo, capisci? Si spaccherebbe in due come un motore congelato sul quale versi dell'acqua bollente. Ma Joao sarà molto contento di questa tua vena metaforica, capo. Quando la poesia mi sgorga dal fondo dell'anima, io non posso fermarla. Proprio dal fondo, eh. Fama, vai. Joao, noi non possiamo fare niente. L'unico che ha il potere di fermare la tua esecuzione è l'amministratore delegato, quindi... Dai, Joao, guarda, con l'ukulele noi possiamo alleviare un po' la tua sofferenza. La tua fame forse no, ma certo la tua saudagi, quella sì. Un po' di musica autoprodotta, Joao. Sei contento? Bene, allora canta. Io fama, vai. Allora, Cappa, io sono Drago in una nuova versione, la Release 2.0? Sì, ma sei uguale all'altra versione. Hanno tolto qualche bug, forse, però, insomma, in sostanza sei la stessa cosa, quindi non farti problemi. Ah, ok. È come se fossimo, che ne so, le repliche di Cappa e Drago, vedila così. Le repliche? Certo. Sì. No, ma non nel senso di repliche televisive, Drago, nel senso di doppioni, doppelganger. Siamo i doppioni di Cappa e Drago. Sì, però siamo sempre noi due. Sì, è quello che sto cercando di spiegarti. Ma allora cosa cambia? Niente, appunto, niente. Ma di cosa stiamo parlando? Lascia allora perdere, Drago, è matematica, tu la matematica non la capisci. Vabbè, allora, Cappa, in questa nostra nuova versione noi dobbiamo dirimere la controversia del tredicesimo apostolo, giusto? Paolo o Amoghele? Paolo, ex persecutore di cristiani. Ama la pesca, la caccia e l'opera di propaganda. Di lui è stato detto... Ecco, costruttore del cristianesimo, l'inventore del cristianesimo. Non male come curriculum, eh? Direi di no. E poi c'è Amogele, istruttore di self-fisting, cittadino botswanese, ama la caccia all'uomo, la pesca all'uomo e cibarsi di uomo. Di lui è stato detto... Ma di dove è Amogele? Ma chi è? Non è il massimo, ma coraggio, Amogele. Tutti gli outsider partono così. Cappa, cosa c'è? Niente, no, mi è apparso di essere in un reality show, una specie di reality in cui si doveva decidere chi era il tredicesimo apostolo di Gesù e c'erano due... No, invece stiamo assistendo impotenti all'esecuzione cruenta di migliaia di polli. Già, e l'amministratore delegato non ha telefonato per graziare Joao? No, non si sa ancora niente. No, no, ma dai, ma cappa, ma non possiamo mica rimanere qui a mangiare i popcorn. Dammi un po'. Senza nemmeno provare un po' ad aiutare Joao, dai. Bravo, dai, abbiamo cantato la canzoncina, tanta fama, guai. Oh, dai, cosa possiamo fare ancora? Ancora? Ho fame. Joao, stai tranquillo, dai, siamo venuti a salvarti. Vieni vicino alla porta della voliera. Fame. No, smetti per un attimo di pensare alla tua fame. Dai, fatti acchiappare. Vieni qui. Lo sai che per te ho ponticellato l'interruttore della porta della voliera. Adesso guarda. Vedi? Si apre. Ecco, perciò vieni qui. Fame. Drago, l'allarme, i cani. Vieni con me, Joao, vieni. Andate via, di là, sulla tangenziale. Drago, dove c'è la tangenziale? No? Dove vai? Chiappa. No, ma cosa succede? Niente, shh, zitto. Come zitto? No. Abbiamo fatto evadere Joao. Sì? Siete pazzi? Ma no, tu stai tranquillo, fai finta di niente. Ma dov'è Drago? Drago è andato con Joao che lo porta... No. Sì, sai dove c'è la tangenziale lì al bordo? Tangenziale? Sì, ma fai uscire dal buco e così scappa. No, lì va a fare Extreme Crossing. Ma no, Extreme Crossing. Sì, ma no, almeno scappa e non lo decapitano. Ma lì finisce spettacciato, eh? Ecco, ecco Joao, dai. Lo vedi il buco che dà sulla tangenziale? Buona fortuna, Joao. Buona fortuna. Corri, Joao! Corri libero! Con la tangenziale, Joao! Corri! Cappa, la tangenziale! Il traffico, la tangenziale! Ma Drago, cosa stai dicendo? Oh, non so cosa mi prende, Cappa. Tutto a un tratto mi è sembrato di essere sulla pista di Extreme Crossing qua fuori. Vedi, puntata numero 32. Ma quale extreme, Drago, e soprattutto quale crossing? È sempre la stessa storia. Quello che tu sembri vivere in realtà è solo un barlume di coscienza dell'esistenza delle nostre repliche. È complicato, però sì. Oppure siamo noi le repliche. Adesso non mi ricordo più bene, però comunque non importa, Drago, concentrati. Cosa devo fare? Il priorato di Sion, secondo il codice da Vinci, ha protetto Cristo in Francia. Ok. Il priorato di Sion, invece, in Svizzera, ha protetto Amogele, nel Canton Vallese. Adesso ci sono, Cappa, scusa, adesso ci sono. Georg Büchner, cioè la fabbrica di polli, è vissuto a Zurigo per tanti anni. Sì. E Zurigo dov'è? In Svizzera. In Svizzera. Ecco. Quindi ci deve essere un legame tra le due cose. Ma perché? Cioè, perché? Svizzera. Per amore di simmetria. Ah, beh, ok. Cos'è? Fai ironia sul mio amore per la simmetria? Ma no, no, figurati. Fai ironia sul fatto che per me la simmetria ha un valore sganciato da ogni bisogno concreto? No, magari che non l'ho mai pensato. Adesso che me l'hai fatto venire in mente. Büchner e Amogele, Drago, i conti devono tornare. Büchner e Amogele. No, ma dai, calmati adesso, Cappa, perché no, se qualcuno ti sente dire Büchner e Amogele così, pensa di essere impazzito. Büchner o pensa che sei impazzito tu, Cappa. Büchner e Amogele. Che cosa succederà adesso? Esistono differenti versioni della coppia Cappa e Drago che stanno vivendo esperienze simultanee ma indipendenti tra loro? E adesso che possono? Cappa e Drago si uniranno civilmente con un dico? Per saperlo, non dovete far altro che aspettare fino a domani alla stessa ora su Radio 3 per il prossimo cyberbancheggiante allestimento de... La fabbrica di polli produce... Fabbrica di Polli, un programma di Cappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La Fabbrica di Polli è trai.it.